Era l'aurora quando giunsi all'agorà. C'era un cielo pulito, freddo. Mi accompagnavano Difilo e altri tre schiavi di casa. Grazie a un permesso speciale che ci aveva dato Demostene, i lessiarchi vestiti di rosso ci fecero attraversare il luogo dove pulsava la vita di Atene e che sarebbe rimasta vuota per tutto il giorno, proprio a causa dell'assemblea. La vista dell'acropoli mi lasciava sempre senza fiato. Il complesso dei Propilei, il Partenone, erano bellissimi ma irraggiungibili, appartenevano davvero agli dei, non agli uomini. Stavamo percorrendo via dell'Areopago, accanto alla rotonda, dove si conservava il fuoco sacro della città. Più in là, in mezzo agli imponenti platani, la libreria di Ofione ancora chiusa. Poco dopo raggiungemmo la collina dell'Apnice. Sulla vetta di un palo altissimo era stato issato il Semeion, lo stendardo dorato di Atene con al centro la civetta. Dall'acropoli all'agorà, dallo scambonide al ceramico, dal collito al melito. Tutti avrebbero saputo che lì, sulla collina dell'Apnice, si stava tenendo un'assemblea del popolo. Nel frattempo avevamo raggiunto la scalinata che si incuneava nell'anfiteatro. Iperide mi stava aspettando. Garantì per me e l'essiarca con la clamide rossa mi lasciò passare. Attraversammo uno schieramento di arcieri sciiti. Difilo e gli altri tre amici dovettero restare fuori. Nella penombra delle scale, Iperide mi abbracciò, mi sfiorò la bocca con un bacio. Ebbi paura che qualcuno potesse vederci, glielo dissi. Mia piccola musa che suscita desideri, mia divina erato, ma da dove vieni? Da quelle lupo? Eppure mi pare che a Fliunte, come in tutta l'Ellade sia la stessa cosa. Dato che tu per gli altri sei un ragazzo, il mio ragazzo, io posso baciarti pubblicamente senza timore di dare scandalo. Diverso sarebbe se sospettassero che tu fossi una donna. Oh, Assiotea, questo mondo è pazzo, è tutto sottosopra e tu sei così bella. Perdonami per quella sera a casa mia, non dovevo essere così impetuoso. Quanto prima ti riscatterò e verrai a stare con me. E mi fissava con quei suoi occhi candidi. Non dire di no, ti prego. Vivremo e lotteremo assieme. Vedrai, Demostene è un duro, ma ce la faremo. Quando ci incontriamo io e te, Iperide, è come se tutta la nostra razionalità svanisse. Mi strinse una mano. Riprendemmo a dirigerci verso l'entrata. Mi sfiorò il braccio sinistro nascosto dall'imatio. Ma è possibile che tu, a 19 anni, mi debba far sentire un ragazzino, a me che ne ho 40. Il suo sguardo mi teneva inchiodata come in una morsa. Copriti il braccio, mi raccomando. Un giorno glielo sbatterò in faccia il tuo marchio a questo popolo di merda. E oggi sarò costretto a chiamarti Assioteo. Cercò i miei occhi. Mi strinse un'ultima volta la mano mentre sboccavamo nell'anfiteatro. Incontrammo l'incaricato del consiglio che distribuiva le corone di mirto. Ce ne porse una a ciascuno. Attraversammo tutto il semicerchio, dirigendoci verso la tribuna. Spirava un'aria fredda, pungente. Ci sedemmo nella parte sinistra. Alla nostra destra, l'acropoli. Alle nostre spalle, i portici. Davanti a noi, l'anfiteatro ancora vuoto. Accanto a noi, la tribuna. Iperide era teso. Speriamo che non comincino a stappare le botti con una giornata d'anticipo. Non vorrei che il Consiglio mi abbia concesso questa data proprio a causa dell'argomento della mia supplica. Non è la prima volta che non si raggiunge il numero legale. Il suo sguardo volava oltre l'anfiteatro di pietra, verso l'agorà sotto di noi. Devono essere almeno in 6.000, vero? E visto che mi faceva un cenno di assenso, gli domandai se anche quelli delle ultime file sentivano bene. L'acustica non è perfetta e talvolta bisogna gridare. Spira sempre quest'aria che ti sperde la voce. Già si parla di spostare la sede nel teatro di Dioniso, lì sotto l'Acropoli. Protese il braccio verso la nostra destra, poi cercò i miei occhi. Quel bastardo di Demostene, anche senza intervenire, poteva almeno essere presente. Ci manda al macello da soli, non vuole avere nulla che spartire con noi due. Maledetto. Spero di farcela a convincerli. Ma se le cose dovessero andar male, se mi accorgo che tutto è perduto, allora lanciati tu nella mischia, Assioteo. Se parlerai vuol dire che non avremo niente da perdere. Cavalca allora la tua mente fredda con il tuo cuore caldo, come faccio io. E stringeva i pugni e li mostrava alla platea vuota. Mi raccomando, non sfiorare la faccenda dell'altra schiavitù, quella della donna. Ti Tutto a suo tempo. Oggi non credo sia il caso. Piegò la bocca a un sorriso dolcissimo. Un giorno torneremo a Cleonte, a Sciotea, e porgeremo una corona di fiori ai piedi di Eracle per ringraziarlo di averci fatto incontrare. I suoi occhi si riempirono di una tempesta di ombre che si accavallavano a lembi di sole. Nello spazio di una clessidra, mentre i primi raggi di sole cominciavano a piovere dalle nostre spalle, l'anfiteatro prese a riempirsi. Ogni cittadino portava con sé una borsa tracolla con dentro cipolle, pane secco, olive e una piccola borraccia di vino. Il carro con le corone di mirto andava svuotandosi. Alla fine Peride tirò un sospiro di sollievo. Il numero legale era stato ampiamente raggiunto con oltre 8.000 presenze. Il banditore pubblico invitò gli ateniesi a prendere posto nello spazio consacrato. Appena la gente si fu sistemata, due sacerdoti immolarono quattro maiali sull'altare di Zeus Agoraios, un cubo di pietra alla destra del bema, i gradini riservati agli oratori. Col sangue dei maiali, i sacerdoti tracciarono una specie di cerchio che racchiudeva tutta la parte dell'emiciclo occupato dai cittadini, sino alle nostre spalle. L'araldo poi pregò gli dei a voce alta e subito dopo si rivolse a Iperide, esortandola a non ingannare il popolo. Poi rivolse lo stesso invito alle prime file, dove sedevano molti uomini politici. Così dicendo, il suo sguardo andava alle decine di arcieri sciiti che si erano sistemati al di fuori del cerchio di sangue per garantire l'ordine. Venne poi estratto a sorte il presidente dell'assemblea, Aristonico di Rufo, del Demo del Collito, il quale venne a sedere accanto a noi. Uomo dai capelli lunghi e barba lunga, gli occhi lacrimosi ma vivaci. Non appena ebbe dato le istruzioni ai copisti, i quali andarono a sistemarsi alla destra del bema con le loro tavolette di cera per scrivere un riassunto di tutto quello che si sarebbe detto in assemblea, fu lui a raggiungere il primo gradino e ad aprire la discussione. Amici, la dea bendata ha voluto che fossi io a presiedere questa assemblea. La materia direi che scotta, anzi, brucia. È prevedibile che i cuori si infiammino. Per questo sarò inflessibile. Chi passa il segno lo farò espellere e non venga poi a lamentarsi che vuole il gettone di presenza. Sono uno dei più vecchi e ne ho viste di assemblee importanti, ma questa di oggi potrebbe restare nella storia. È stato deciso che presenzieranno le più alte autorità di Atene, che siedono tutte nelle prime file. L'amministratore delle finanze Eubulo, Decade, Eschine, i generali Carete, Coridemo e Ificrate, Licurgo, Focione, Midia, e Egesandro, e Gesippo e tutti gli altri, tranne Demostene. Nessuno voleva mancare oggi che tra l'altro si chiude l'anno di Apollodoro. E l'arconte eponimo si alzò in piedi salutando tutta l'assemblea. E comincia l'anno del nuovo arconte eponimo, l'anno di Callimaco. Nella prima fila, proprio accanto a Focione, si alzò il nuovo arconte che inviò il saluto a braccia protese verso i cittadini, i quali rumoreggiarono un'entusiastica acclamazione al suo indirizzo. Aristonico invitò il nuovo arconte a sedere accanto a lui. Callimaco era un uomo alto, capelli bianchi, corti e ricci, barba curata, occhi infossati. Espressione gioiosa sul volto e sugli occhi. Con un'andatura compassata raggiunse la nostra postazione dai gradini del bema, volle indirizzare due parole all'assemblea. Ieri, nel portico reale, ho prestato giuramento davanti alle stele con le leggi e ho invocato la protezione di Temi. Il mio augurio è che gli dèi possano vegliare su di noi non soltanto durante quest'anno che porterà il mio nome, ma per tutti gli anni a venire. Sono un cittadino semplice, so accontentarmi di poco. Mi basterebbe il prossimo anno, quando cederò il posto al futuro arconte, poter dire quello che ha pronunciato il mio predecessore Apollodoro. E protese una mano verso di lui, ovvero che è stato un anno in cui voi siete riusciti ad invertire la rotta dei vostri predecessori, rotta che era sempre soltanto guerra, guerra, guerra. Vorrei che l'anno dell'arconte Callimaco fosse ricordato come l'anno della pace. Protese le braccia verso i cittadini che lo salutarono acclamandolo. Iperide si volse. Mentre mi pregava di prendere appunti sulle tavolette di cera che aveva portato per me, lessi rabbia e disappunto nei suoi occhi. Spirava un vento freddo che risuonava negli orecchi. Spentosi il clamore della folla che assiepava i gradini dell'emiciclo, il presidente dette la parola all'oratore che aveva promosso l'assemblea. Iperide si alzò in piedi, si sistemò la corona di mirto sul capo e si diresse sul terzo gradino del bema. Mi unisco alla speranza dell'arconte Callimaco. E chi non sogna la pace? Tutti la vogliamo. Ma a volte per poter raggiungere quell'agognata pace occorre lottare, sacrificarsi, morire. Non voglio rubarvi tutta la giornata. Da domani ci attendono le botti del vino nuovo e mi piacerebbe che festeggiassimo Dioniso con l'animo tranquillo perché siamo riusciti oggi a tenere a freno le emozioni, dando ascolto solo alla nostra mente fredda. Perché oggi dobbiamo decidere il nostro futuro e quello dei nostri figli. La sua voce era chiarissima nonostante il vento. Come potete vedere, contrariamente a come solito fare il mio amico Demostene, non ho preparato la mia orazione. C'è solo il mio assistente Assioteo che va prendendo qualche appunto. Dunque, Demostene. Qualche settimana fa, proprio qui, non è riuscito a persuadervi della gravità della situazione, o forse voi non avete voluto capirlo. Altrimenti era inevitabile una vostra reazione, gettando sul piatto della bilancia dracme la vostra vita. Denaro e armatura da oplita, al Pireo, al porto di Zea, su una nave da guerra e via a combattere contro un nemico che oggi sembra lontano. Demostene non è un catastrofista, è la persona più assennata che io conosca ed è il più grande patriota che questa città abbia mai avuto. Ma è un politico che conosce perfettamente come stanno le cose. E se errore ha commesso, è stato quello di non avervi spaventati a sufficienza. Amici miei, oggi lo Stato mi risarcirà con 2 dracme. Io e Demostene non ci siamo decisi a fare questo mestiere per denaro. Lo facciamo perché, al di sopra di tutto, noi amiamo questa città. Perché non vogliamo che diventi schiava dei barbari Filippo e Artaserse. Fece una pausa e io ne approfittai per rispondere allo sguardo intenso di Focione. Sicuramente mi aveva riconosciuta. Spaventarvi no, ma essere sincero? Sì, questo sento il dovere di farlo. Ebbene sì, siamo l'unica città-stato, l'unico stato al mondo in cui comandiamo noi, il popolo. Ogni legge viene discussa, approvata o rifiutata qui direttamente da noi, da voi, dal popolo. Questo però non vuol dire che il nostro sia un sistema perfetto, perché a volte ci siamo fatti prendere dalla passione, che si è diffusa contagiosamente. E sono accadute vicende vergognose, come la condanna a morte dei generali vittoriosi alle isole Arginuse. Erano innocenti, ma furono mandati a morte dai nostri avi. A cosa o a chi servì il loro tardivo pentimento? Ebbene, ho paura che stiamo diventando tronfi e pettoruti con questa storia del popolo al governo. Vedete, noi siamo democratici solamente per una piccola frangia di popolo. Solo 1 su 10 gode di tutti i privilegi, che poi si riassumono in 2 parole: bella vita. Ma alle città alleate, noi, i più democratici del mondo, ebbene, noi non offriamo la libertà e i privilegi di cui godiamo. Noi le teniamo in una posizione di sudditanza, quasi schiave. E se si ribellano, amici miei, le sterminiamo senza pietà. Siamo stati capaci di chiedere denaro e aiuto ai persiani, pur di continuare a dominare le altre città elleniche. I nostri avi sono stati fantastici, certo, ma il tutto è durato non più di 50 anni. Dobbiamo metterci in testa che quei tempi sono finiti. Finora abbiamo campato di rendita e adesso tutti i nodi stanno per venire al pettine. Un buon bagno di umiltà e di realismo può solo farci bene. Mentre noi continuiamo a crogiolarci nel ricordo delle nostre vittorie passate, Filippo e Artaserse si sono rafforzati, hanno svolto ottime operazioni diplomatiche, hanno affinato le loro tecniche di guerra, hanno capito come fecero i nostri padri a batterli. Hanno aspettato che noi prosciugassimo fiumi di vino, atteso che ci trasformassimo in conigli e stanno per mangiarci. Si divideranno il bottino, credetemi. Chi li fermerà? Noi, voi. Voi seduti lì, amici miei? Voi che non vedete l'ora di archiviare questa pratica fastidiosa in nome della democrazia per poter correre a stappare le botti di vino? Presto scorrerà un fiume, ma non di vino, di sangue. È questione di pochi anni, pochi mesi, forse poche settimane. Quando lo capirete, probabilmente sarà troppo tardi. Per prepararsi a una guerra, anche se di difesa, ci vuole tempo e forse ancora ne abbiamo a disposizione, ma occorre sbrigarsi. Dobbiamo giocarci un astragalo imprevedibile che potrebbe mutare il volto del nostro esercito. Siete persone caute, assennate, so che voi, gli astragali, andate a lanciarli solo all'agorà, puntandoci sopra qualche obolo, mentre qui si parla della vostra vita. Ed è più che giusto. Non si possono prendere grandi decisioni in base a idee o proposte astruse. Ebbene, amici miei, la soluzione c'è. Diamo la cittadinanza a tutti i meteci, a tutti gli stranieri che vivono con noi. Sono loro la parte più attiva della nostra società, perché hanno in mano il commercio, l'artigianato. Sono probabilmente i migliori ateniesi. Ma questo basterebbe? No. Sarebbero sempre pochi e comunque non motivati a sufficienza. Amici, facciamo crescere i capelli agli schiavi, affranchiamoli e armiamoli. Allora sì che potremo continuare ad aprire migliaia di botti di vino e non solo nelle antesterie, ma durante tutto l'anno. Un brusio sempre più forte prese a sollevarsi dall'emiciclo. Il presidente fissò Iperide con espressione interrogativa, ma lui gli fece cenno che aveva bisogno di concludere. Era inutile da parte mia riassumervi tutti i dettagli ampiamente esposti da Demostene. Voi tutti sapete perfettamente come sta la situazione. Per noi è finita. Non siamo noi a voler abbandonare questa condizione di pace, ma lo vuole il Macedone, lo vuole il re dei re persiano. Noi non possiamo difenderci con un piccolo esercito di rammolliti. Ci vuole sangue fresco nell'armata, a cui affideremo il compito di difendere la nostra pace, il grano che ci arriva via mare, la nostra vita e quella dei nostri figli. Questo sangue fresco, ad Atene, in tutta l'Attica, scorre nelle vene degli stranieri che vivono qui, soprattutto in quelle degli schiavi. Forse facciamo ancora in tempo. A voi la parola, amici miei. E si mise a sedere, accarezzandosi la corona di mirto che si perdeva nei lunghi capelli biondi. Le prime due file restarono impassibili, qualche occhiata obliqua, rapidi sguardi al vicino, diffidenti, freddi, ma il resto dell'assemblea cominciò a rumoreggiare. Un brusio sempre più forte prese a levarsi da ogni parte. Nessuno sembrava avere il coraggio di intervenire, nemmeno dopo che il presidente aveva gridato a più riprese. Chi chiede la parola? Finalmente un cittadino che sedeva nelle ultime file in alto si alzò, venne verso la tribuna e salì su uno dei tre gradini. Aveva i capelli bianchi, una voce scordata ma possente. Sono Testio, figlio di Panemo, del demo di Maratona. Esprimo il pensiero di gran parte della mia tribù e credo anche della maggioranza di questa assemblea. Ringraziando Iperide per il suo profondo attaccamento alla nostra città e alla nostra terra. Per partorire simili idee proposte, vuol dire che lui sente davvero che c'è un pericolo imminente. E davanti a questa visione terrificante di due giganti che stanno preparandosi a fare di noi un sol boccone, può scaturire anche una proposta rivoluzionaria come quella appena esposta all'Assemblea. Un'assemblea abituata a tutto, aperta a qualunque idea innovatrice, da sempre. Questa è la forza e il vanto degli ateniesi. Ma ho paura che oggi si sia passato il segno. I nostri ambasciatori ci dicono che gli ultimi avvenimenti non giustificano assolutamente un simile timore di catastrofe imminente. Ripeto, il punto è tutto qui. Perché dinanzi alla fine si può fare tutto, anche accogliere la proposta più audace e folle, pur di tentare di salvare il salvabile. Mentre noi non ci troviamo assolutamente in queste condizioni. Volse il capo verso Iperide, un sorriso indulgente sul faccione. Iperide, Non te ne voglio per averci chiamati ramolliti. So perché l'hai fatto, per darci uno scrollone, ma noi siamo diventati cittadini giudiziosi, abbiamo concesso forti poteri a persone come Ubolo. E indicò l'uomo stempiato che sedeva in prima fila. Perché non si fanno più vincere dai sacri furori della guerra e dell'onnipotenza che bruciava nell'animo dei nostri gloriosi antenati. Gente come Ubulo e tutto lo schieramento della pace è gente riflessiva che interpreta il desiderio di quiete di questo popolo. Nulla e nessuno riuscirà a cambiare la rotta intrapresa dagli Ateniesi. Questa assemblea ha rifiutato 3 settimane fa le proposte moderate di Demostene. Questa assemblea, giustamente convocata prima dell'apertura delle botti di vino e non dopo, a maggior ragione, rigetterà una proposta folle come quella di Peride. Accompagnato da un mormorio di approvazione, tornò a scalare le gradinate per andare a rioccupare il suo posto. Subito un altro cittadino si alzò e raggiunse la nostra tribuna. Salì sul terzo gradino, si sistemò con orgoglio la corona di mirto sulla testa, attaccò a parlare con una voce secca. Sono Latmo, figlio di Licofrone, del demo del Melito. Questa che doveva essere una delle assemblee più lunghe e travagliate della storia, sicuramente si concluderà presto e bene. Testio di Panemo ha riassunto in poche parole come la pensano gli ateniesi. Quelli che hanno governato prima di noi si sono assunti la responsabilità delle guerre. Noi ci assumiamo la responsabilità di volere la pace a tutti i costi. Il Macedone è forte, è vero, ma noi sappiamo che anche Filippo preferisce trattati e accordi piuttosto che uno scontro diretto. Il persiano gira al largo dall'Attica, memore delle sconfitte del passato. Certo, noi non dobbiamo starcene con le mani in mano. Ma lavorare ogni giorno con le nuove armi, quelle della diplomazia. Mandiamo i nostri ambasciatori. Iperide e Demostene sono grandi oratori, ottimi politici. A nome dell'assemblea tutta, li prego di non sprecare le loro migliori energie di demagoghi con noi, ma con Filippo e se occorre anche con Artaserse. Con un'espressione soddisfatta sul volto, tornò al suo posto accompagnato dall'approvazione di tutta l'assemblea. Ad Aristonico bastò accennare a chi voleva chiedere la parola. Senza perdere tempo, venne a parlare un uomo abbastanza giovane, capelli lisci e neri, occhi chiari, voce grossa, tale Nemrud di Scirone del Demo del Ceramico. Amici tutti, si è parlato poco, pochissimo della vera essenza di questa assemblea. Dunque, la libertà agli stranieri è una faccenda semplice da sbrigare. Già altre volte se ne è discusso proprio qui. Si tratta solo di stabilire quanti talenti chiedere a tutti i metecci che vivono e lavorano ad Atene e nell'Attica per regolarizzare la loro posizione. E prima o poi credo che ci arriveremo. Non è questo il punto, anche perché riguarda una minoranza della popolazione, ma è l'altra libertà che mi sembra una cosa stupida e assurda. Protendeva le mani agitandole verso ogni lato dell'emiciclo, la voce accorata. Gli schiavi rappresentano un grosso patrimonio per noi cittadini, sono il nostro tesoro. E noi da un giorno all'altro dovremo privarcene e con quali garanzie? Immaginate un esercito di schiavi senza identità, senza il fuoco di appartenenza a una fratria, a un demo che affronta il Macedone. Un uomo furbo come Filippo ci metterebbe niente a convincerli, magari con una mezza promessa di assegnargli un pezzo di terra oppure di affidare loro come schiavo qualche cittadino di Atene, qualche ex padrone, ovvero sia noi come schiavi. E potete immaginare cosa accadrebbe? Il rovesciamento dei ruoli. Noi, cittadini e padroni, noi ridotti in schiavitù dai nostri ex schiavi. Quello che vi sto prospettando non è parto di fantasia, ma esattamente quello che accadrebbe. Voi conoscete perfettamente come siamo costretti ad agire con i nostri schiavi, ammesso in un concesso che diventiamo così stupidi da rinunciare a loro. Ci garantisce che si metteranno a rischiare la vita per noi? Scuoteva la testa istericamente, allargava le braccia, un'ironica espressione di falsa disperazione sulla faccia ossuta. Ho partecipato a decine e decine di assemblee e ne ho viste di tutti i colori. Mai, una sola volta però, ho avuto la sensazione che voi foste stupidi. Tacque, sorrise come rinfrancato. E non credo che lo sarete proprio oggi. Riprese a scuotere il capo, questa volta con un'aria di commiserazione nei riguardi di Peride, mentre si avviava tra le acclamazioni soddisfatte e allegre dell'intera assemblea. I numerosi interventi che seguirono ricalcarono grosso modo quello di Nemrod di Cirone. Il sole freddo era salito in cielo, le clessidre continuavano a rovesciare il loro tempo inesorabile. Ci fu un breve intervallo per rifocillarsi. I peridi mi gettavo occhiate furibonde. Non c'è niente da fare, Assiotea. Sta andando peggio della peggior previsione. Questa gente non è solo codarda e stupida. Questa gente mi fa schifo, per Dio. Non mi ci riconosco più. Vorrei fuggire, fuggire. I bei lineamenti che tenevano in piedi il suo perenne sorriso erano crollati. Parla tu, Assiotea. Io non l'ho provata la condizione della schiavitù. Tu la stai subendo, mentre questi bastardi non vedono l'ora di stappare le botti. Per Dio, che schifo. Proprio in quel momento Aristonico chiese a tutti di riprendere posto. Il cuore che mi tremava, allungai una mano e feci un cenno per richiamare la sua attenzione. Gli occhi lacrimosi dell'uomo brillarono di sorpresa. Con le gambe che mi tremavano, mi alzai in piedi e raggiunsi la tribuna. Salii solo il primo gradino. Mi feci coraggio. Perdonate la mia arroganza. Credo d'essere la persona più inesperta e giovane di questa assemblea. Non ho preso la parola come segno di arroganza, credetemi, ma solo per concedere la parola anche agli assenti. Tremavo. Il vento continuava a sibilare nei miei orecchi. Tutti quegli occhi mi sembravano chiodi conficcati nei miei pensieri. Manca un rappresentante della categoria degli schiavi, mentre sarebbe stato utile a tutti noi sentire almeno uno di loro. Voi siete noti perché non prendete mai una decisione affrettata, senza prima aver esaminato tutte le sfaccettature, tutte le varie ipotesi, tutti i perché. Ma oggi non potete ascoltare la loro voce perché non avete mai permesso che qui, nella Pnice, mentre decidete i destini degli ateniesi, potessero partecipare anche gli schiavi. Il mio povero cuore spaventato invocava la guida di mia madre. Oggi qui sono rappresentate tutte le altre categorie e ci sono tutti quelli che comandano, tutti, arconti, strateghi, demagoghi, sacerdoti, logografi, sicofanti, magistrati, ambasciatori, uomini d'armi, tutti, tranne i filosofi. Non ce n'è uno, nemmeno uno. Eppure sono stati loro a creare le categorie umane. I filosofi esaminano i legami fra gli uomini e gli dèi. I filosofi studiano l'uomo e la natura ed emettono sentenze inappellabili. Oggi qui, accanto a Eubulo, a Eschine, a Midia, a Focione, oggi doveva esserci il divino Platone, è il più saggio e poteva aiutarci a capire. Lui ha compilato la classificazione dei generi di vita e io adesso ve la leggerò cominciando dal basso. Gettai uno sguardo timoroso alla tavoletta di cera che avevo portato con me. Dunque, troviamo al nono posto il tiranno. Bene, un tiranno non merita certamente le prime posizioni, ma all'ottavo posto, solo all'ottavo, il demagogo. Io avrei qualche dubbio. Mettere solo all'ottavo posto uomini come Demostene e Peride, beh, sinceramente mi sembra un po' strano. Questa lista comincia a puzzare di bruciato. Non riuscivo a sollevare gli occhi verso quella gente stranamente silenziosa. Avevo paura dei loro sguardi. Ma veniamo al settimo posto. Il coltivatore e l'artigiano. Bene. Una buona posizione, niente da dire, così come per il poeta inserito nella sesta posizione. Ma resto un po' perplesso quando si arriva alla quinta posizione. L'indovino. Un filosofo che si nutre di logica e di scienza inserisce poi l'indovino fra i primi posti della classifica. C'è qualcosa di poco chiaro con tutto il rispetto che dobbiamo nutrire per i nostri dei e per coloro che sanno accedere al sacro, che hanno la capacità di incontrarsi con l'intelletto della divinità stessa. Perché se davvero Platone crede in quello che ha scritto, allora l'indovino dovrebbe occupare il primo posto della lista, perché nessuna figura umana può essere più importante di chi riesce a dialogare con gli dèi. L'indovino o si mette al primo posto o non si inserisce in una lista come questa. Ma proseguiamo. Mi arrendo davanti al quarto posto, lo sportivo. Vuole esaltare la gioia del corpo che combatte per lo standard di una città e per gli dèi. Ebbene. Concediamoglielo al divino Platone, che finalmente si riscatta con il terzo posto, l'uomo politico, e con il secondo posto il re, anzi no! E lesse attentamente quello che aveva scritto sulla tavoletta. Non il re, ma il buon re! Finalmente il divino Platone ha cominciato a dare dimostrazione di saggezza, ma udite, udite, ora arriva il primo posto, il più importante. Chi occupa il primo posto detiene un ruolo che è onore, ma anche responsabilità. Indovinate, ateniesi, chi ha inserito Platone al primo posto? Il filosofo. Proprio il filosofo. E fece il gesto di mostrare la tavoletta all'assemblea, ma il mio braccio sinistro fu sul punto di scoprirsi. Continuai a tenerla ben stretta in mano, in qualche modo mi aiutava. Dunque, il divino e sommo Platone dice che il filosofo è colui che sta lì, al primo posto della classifica dei generi di vita umana, perché lui, il filosofo, i filosofi, hanno la visione vera della vita. In questa classifica non hanno inserito lo schiavo né al decimo né al ventesimo posto, perché essi, i filosofi, dicono che gli schiavi non sono come gli altri esseri umani. Per Platone e per Aristotele, gli schiavi sono creature inferiori per natura. Nascono così. Essendo inferiori, l'unica loro aspirazione è quella di servire l'uomo libero. Di più, amici, io non posso dirvi. Io faccio il copista per Demostene, copio i discorsi che lui prepara per voi. Io ho solo letto qualche libro, sono troppo giovane per sputare sentenze, ma dico che oggi, beh, almeno oggi, i signori filosofi dovevano essere presenti in questa assemblea per spiegare meglio a noi come succede esattamente questa faccenda che un uomo nasce inferiore non di statura o di condizione sociale o di ricchezza, no! Nasce inferiore per natura. Qui, proprio qui dentro, nella mente. È un'eventuale smentita dell'indovino che dialoga con gli dèi non avrebbe valore in quanto al primo posto Platone ha messo il filosofo, lui è la verità. Respirai a fondo, la voce mi tremava, ma almeno adesso sapevo cosa avrei detto. Le cose tuttavia non sono andate sempre così. Non vorrei che si pensasse che io, uno sbarbatello arrogante, mi sia messo a sputare sentenze contro i filosofi. Non è così. Ma un secolo fa, proprio qui ad Atene, qui nella Pnice, Antifonte il sofista, un grandissimo filosofo, di quelli d'una volta, poco lusso e molto studio, a un gruppo di cittadini come voi, in una giornata come questa, propose di abolire la schiavitù perché il marchio che portavano gli schiavi, in realtà, era un marchio che portavano addosso loro, i cittadini ateniesi. Perché Antifonte pensava che non ci fosse cosa più orribile al mondo del pensiero di nascere superiore a un'altra creatura umana. Certo, è proprio quel momento, la nascita, in cui si decide molto, moltissimo del destino di una persona. Provate a prendere due bambini appena nati, uguali, maschi, identici. Uno è il figlio di Demostene, l'altro di un povero schiavo del Pireo. Provate a scambiarli nella culla, a mettere il figlio di Demostene nella culla del Pireo e quello del Pireo nella culla del quartiere di Scambonide, in casa di Demostene. Poi è andata a vedere i bambini dopo 20-30 anni. È quasi sicuro che il povero bambino del Pireo, nato schiavo e quindi inferiore, crescendo in casa di Demostene, sia invece diventato un cittadino rispettato, colto, probabilmente ricco, e siederà qui, tra i vostri figli. Mentre il bambino nato nel quartiere di Scambonide, ma che voi avete portato nella culla di uno schiavo del Pireo, forse non è nemmeno riuscito a sopravvivere, oppure è un poveraccio senza arte né parte, schiavo, senza cultura, con la faccia distrutta dalla fatica e con l'animo vuoto, perché la sua vita è senza speranza, perché non è libero. Un vento inquieto soffiava sulla collina. Iperide vi sta proponendo l'abolizione della schiavitù come ultima spiaggia, ma se voi l'approverete, resterete nella storia come quell'assemblea che alla vigilia delle antesterie preferì tardare a stappare le botti di vino per restituire la libertà a tutti gli ateniesi. Anche senza l'approvazione dei primi della classe, i filosofi. Questa assemblea darebbe una svolta alla storia. Una svolta del genere terrorizzerebbe Filippo ed Artaserse. Quei due giganti di fango capirebbero che gli ateniesi sono invincibili perché pur di difendere la loro libertà, sono capaci di rinunciare alla posizione di privilegio e di comodo offerta da centinaia di migliaia di schiavi. Questa sarebbe una prova di tale forza che solo l'idea di trovarsi di fronte a un esercito di schiavi che per la prima volta nella storia possono difendere la propria vita con le armi, sarebbe una prova di tale forza che i due giganti girerebbero al largo per sempre. Regnava il silenzio più assoluto. Decise di affondare il coltello nella piaga, ora o mai più. A platea. Il popolo riuscì a riconquistare la città e a scacciare i tebani, solo grazie al fatto che chiese aiuto agli schiavi. Gli schiavi scesero in campo e fu la vittoria. A Corcira ci fu una guerra civile. Sia gli oligarchici che i democratici chiesero aiuto agli schiavi, promettendo loro la libertà in caso di vittoria. Gli schiavi non stettero a pensarci due volte. Non ebbero bisogno di ricorrere a un'assemblea per sapere da che parte dovevano schierarsi. Presero le armi e combatterono a fianco del popolo. E vinsero, perché gli schiavi sanno perfettamente da che parte schierarsi. Quel popolo però non mantenne la promessa e gli schiavi rimasero tali anche dopo aver dato quasi tutta la vita per il popolo. Un popolo è grande anche quando è capace di saper riconoscere i propri limiti. Chi è il cittadino libero di Atene? Chi sono gli ateniesi? Chi siete voi tutti? Siete gli uomini in grado di difendere Atene? Ma voi siete diversi dai vostri padri, dai vostri nonni, dai vostri antenati. Molti anni sono passati e voi siete stanchi di fare le guerre. Ma qualcosa dovete pur inventarvi, perché i due giganti stanno lì, stanno solo cercando di capire a chi tocchi balzarvi addosso per primo. A voi piace parlare, discutere, risolvere i problemi con raziocinio, con intelligenza, con buon senso. Non volete rinunciare al livello di vita che avete raggiunto e allora, ateniesi intelligenti, dovete trovare qualcuno che sia più coraggioso degli antichi opliti, più motivato, più feroce, più arrabbiato e ce l'avete e ne avete tanti, tantissimi, un popolo intero, il popolo degli schiavi. Ora prendete questa decisione da soli, senza il parere di chi ha creato la categoria degli schiavi, i filosofi. Iperide mi fece un cenno, forse voleva dirmi che bastava così, ma io volevo aggiungere solo una cosa. Forse adesso avete capito, perché oggi in questa assemblea manca la categoria dei filosofi. Sapevano che saremmo giunti a questo punto, inevitabilmente, e che qualcuno avrebbe chiesto loro la spiegazione del perché gli schiavi siano inferiori a voi. Essi non avrebbero saputo cosa rispondervi. Feci un cenno di gratitudine verso il presidente dell'assemblea e tornai a sedere accanto a Iperide. Tremavo come una foglia.